Terra in vista. L'Italia spiegata a mio figlio. Ben ritrovati a Terra in vista. L'Italia spiegata a mio figlio. Telmo Pievani e Federico Taddia. Ciao. Eccoli. Telmo. Ciao. Ultima tappa del nostro viaggio, ultima puntata della nostra peregrinazione tra le diversità italiane. Eh sì, questa Italia che abbiamo raccontato andando in montagna, andando lungo i fiumi, l'abbiamo raccontata nei suoi simboli, nelle sue isole, insomma, tanti punti di vista molto particolari. E oggi raccontiamo chi in Italia ci vive di fatto. Chi abita tutte queste diversità, cioè gli italiani. Ma esiste un popolo italiano, uno solo? Lo scopriremo. Scopriremo anche che cos'è questa parola, cosa significa popolo, e vedremo anche le varie declinazioni. E non solo, parleremo anche di animali, di chi ha vissuto prima del popolo italiano sul suolo, su questo bel stivale. Però, come sempre, iniziamo con le voci dei più piccoli. A loro abbiamo chiesto di raccontarci che cos'è un popolo, da cosa si riconoscono gli italiani. Un popolo è un luogo dove ci sono delle persone. Sono tante persone che vivono in uno stato. Una grande quantità di persone che formano un insieme e non sono divisi. Ce ne sono tanti, per esempio i comuni in Lombardia. Per esempio degli africani. Il Vaticano e il San Marino. Si può riconoscere che è un italiano perché se parla ha un accento diverso dagli altri. Dalla lingua, forse per dei vestiti che porta, per delle abitudini che ha, per il mangiare, cosa mangia, se sceglie cose italiane o altre. Un italiano è fatto anche dal modo in cui lui parla, poi da come si esprime e da come si vede lui. Come sempre, risposte spiazzanti ma anche particolarmente lucide, quelle dei bambini. È una parola complicata, però popolo, è una parola delicata, è una parola insomma che crea anche un po' di confusione, di disorientamento. Popolo, infatti, gente, nazione, c'è un San Marino e il Vaticano, quindi infatti associano il popolo alla nazione, però anche questo non è detto che sia così. Ci sono nel mondo delle nazioni fortemente legate a un popolo, per esempio la Francia ha una grande identità nazionale di quel tipo lì. L'Italia no, l'Italia come la Germania, come altri paesi che nascono invece dall'aggregazione di tante storie diverse, no? Per cui è difficile rispondere alla domanda se esiste davvero un popolo italiano. I bimbi giustamente lo hanno associato alla lingua. Certo, la lingua italiana è da secoli un grande aggregante culturale, per cui il popolo italiano è uno soprattutto da un punto di vista culturale. Poi si riconosce in certi momenti simbolici, la nazionale o certi momenti di aggregazione particolare, però è un popolo dove c'è una unità nel molteplice, come in tanti paesi federalisti anche in giro per il mondo. Cioè è un popolo che si è fatto e che continua a farsi grazie alle tante diversità al suo interno. Quindi se ci pensi bene, un italiano, se tu glielo chiedi, non si sente italiano e basta, ma si sente italiano e di una certa città, di una certa regione, di una certa appartenenza, no? Questo è tipico della diversità italiana. Diversità italiana che abbiamo raccontato, e per raccontare questa Italia bisogna raccontare il popolo, nel senso che non possono essere tenute distinte queste due entità. O sì, si può fare anche a meno di raccontare un popolo nel raccontare una nazione? È molto difficile, nel senso nel caso dell'Italia devi raccontare i popoli italiani. Poi l'Italia è, come dire, deve questa sua ricchezza a delle ragioni precise, no? È stata, se non molto poco, una nazione imperialista che è andata in giro per il mondo, e noi invece abbiamo raccolto spesso flussi di migrazione, di spostamenti che hanno prodotto la nostra diversità. Abbiamo disseminato gli italiani in tutto il mondo. Pensa a come si sentono tanto popolo gli italiani che vivono al di fuori dell'Italia, che addirittura conservano là dei dialetti in versioni più antiche di quelle che ci sono qua. Oppure vai, che ne so, a New York e trovi delle comunità regionali italiane che ancora usano la pasta che si usava un secolo fa e che qui da noi è andata persa. Quindi vedi, lì senti il senso di essere un popolo anche quando sei geograficamente lontanissimo. Si parte, come sempre, con grandi domande fatte dai più piccoli. Come sono fatti gli italiani? Ecco, e partiamo dalla più semplice e spontanea delle domande: come sono fatti gli italiani? Difficilissima in realtà. Andiamo subito al succo della questione. Non sono fatti come tutti gli altri? Cioè due braccia, due gambe? No, sono particolari, sai, vediamo. Vediamo. E per rispondere a questa complicata domanda abbiamo il piacere di avere con noi Giovanni Destro Bisol, docente di antropologia alla Sapienza di Roma. Benvenuto a Terra in Vista. Ciao, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno Giovanni. Allora, come sono fatti gli italiani? C'è risposta a questa domanda? Ma io penso che già chi ci ascolta magari un'idea se l'è fatta, perché stando insieme agli altri si può notare la diversità tra di noi, le differenze, la statura, il colore della pelle, il colore degli occhi. Gli italiani da questo punto di vista sono molto ben dotati, anche confrontandoci con, non so, i francesi o i tedeschi o gli inglesi. Queste differenze che noi notiamo quotidianamente sono ancora più marcate. Magari poi possiamo parlare anche del perché, che tutto sommato è abbastanza semplice. Dici, perché in fondo l'Italia è così piena allora, di diversità. Allora io consiglierei a chi ci ascolta di prendere una bella carta geografica e sì, di vedere dove sta l'Italia. È un ponte tra l'Europa centrale, costeggiata praticamente dalla Spagna ovest, dalla ex Jugoslavia ad est, e sotto c'è l'Africa, per non parlare della Grecia. Quindi siamo veramente al centro del Mediterraneo ed una terra così, peraltro così bella e così ricca, chiaramente è stata un po' terreno di conquista di tanti popoli o comunque terreno di arrivo, per cui evidentemente anche più di tante altre nazioni che conosciamo, l'Italia ha attratto tante persone diverse che sono venute appunto da parti differenti dell'Europa, e questo in una certa misura spiega anche la diversità che noi notiamo magari anche entrando in una scuola tante volte, no? Ma anche senza tenere conto di tutti quegli arrivi recenti, anche l'avremmo potuto osservare anche, non so, 50 anni fa o 40 anni fa, per esempio, andando a Torino in una scuola, quando era già iniziato il grande flusso che portava tante persone dal sud verso le fabbriche del nord, già lì avremmo potuto notare delle persone che apparentemente sembravano più tedesche che italiane, altre invece con la pelle scura, con dei caratteri magari non molto diversi da quelli di tante persone nordafricane, quindi questo è un po' il segreto della risposta, mettere in evidenza queste grandi differenze che ci sono tra di noi, e fino adesso abbiamo parlato dei caratteri che possiamo osservare. Quindi è vero, siamo come tutti gli altri, ma siamo anche un po', almeno nel contesto europeo, un po' particolari. Ecco, ma queste diversità, Giovanni, si misurano a livello appunto così esteriore, come hai detto adesso, però anche a livello genetico e però anche a livello culturale, linguistico, no? Come si esprime, diciamo, questa diversità? Si esprime su più fronti, perché i diciottenni adesso sono alti in media 1,70 m in Sardegna o 1,80 m nel Friuli, sono 10 cm di differenza, già questa è una bella cosa. Se invece noi guardiamo a quei caratteri nascosti che non si notano ad occhio nudo, che bisogna andare a cercare nelle cellule, questa impressione, questa percezione di diversità diventa ancora maggiore, soprattutto se poi mettiamo in gioco quel terzo elemento di cui tu parlavi, che è quello della lingua. Ecco, proprio a testimoniare quello che dicevo prima, cioè questa funzione dell'Italia come zona di confluenza di tanti popoli diversi, abbiamo in Italia una diversità linguistica che è assolutamente la maggiore in Europa. La ricerca a cui forse tu accennavi, a cui tu pensavi, a cui ho partecipato, ha voluto proprio mettere in relazione le differenze nelle lingue parlate. Facciamo qualche esempio, se no rimaniamo troppo nel vago. Gli albanesi della Calabria, le popolazioni che parlano la lingua tedesca un po' arcaica nelle Alpi orientali, o le popolazioni che parlano occitano, che stanno in Piemonte e in Val d'Aosta. Ecco, queste sono le diversità che ci interessano. E andando a studiare il loro DNA abbiamo visto che a questa grande diversità, che in parte linguistica ma è anche culturale, perché hanno delle tradizioni, dei bagagli di conoscenze ancora molto particolari e molto ben conservati in molti casi, corrispondono anche delle differenze molto marcate a livello del DNA. Ma Giovanni, è vero che voi riuscite, facendo la mappa di tutte queste diversità, anche a trovare delle tracce genetiche di antichi popolamenti, no? Si è parlato molto dei geni degli Etruschi. È vero che alcuni italiani forse hanno qualcosa in più di Etrusco degli altri? Ma sì, sicuramente, se noi pensiamo che ci sono persone che hanno qualche cosa in più di neandertaliano degli altri, perché non pensare ci sia anche qualche cosa di più di Etrusco degli altri? Adesso Federico non ha ancora fatto il calcolo di quante percentuali di Neanderthal c'è in lui, ma lo farà presto. Esatto, mi stavo chiedendo se si può riconoscere anche ad occhio nudo, ecco, questa percentuale. Perché il DNA è subdolo. Io per esempio probabilmente ho una cheratosi attinica che mi viene dai neandertaliani. Sugli etruschi chiaramente bisogna andarli a cercare un po' nelle loro zone di origine. Questi etruschi da dove vengono? Dalla Lidia oppure sono una popolazione, diciamo, che si è evoluta localmente lì nelle zone tipiche dell'Etruria, quindi la Toscana fino alle terre amare a nord e anche a Ponte Cagnano a sud in Campania. Gli studi, diciamo, fatti sul DNA, in particolare sul DNA antico, ci dicono che probabilmente, per quanto a un certo punto della loro storia gli Etruschi si siano mossi da qualche parte e siano magari arrivati in Italia, un momento molto remoto, gran parte della loro storia si è svolta proprio nel nostro paese. Queste tracce di questo arrivo dalla Lidia, quindi dalla zona dell'attuale Turchia, in particolare dell'Anatolia, non sono poi così forti e decisivi. E quindi a volte si trovano delle spiegazioni che magari sono quelle meno affascinanti, però sono quelle che scientificamente reggono di più. Giovanni, chiuderei con un'ultima domanda. Comunque, se ci sono 100 persone, tra queste 100 persone ti dicono: guarda, sicuramente una è italiana, trovala, cioè tu, qual è la prima cosa che guardi? Diciamo, potrei guardare un DNA completo. Allora, diciamo questa cosa. Uh-huh. Che nelle nostre cellule c'è questa molecola che si chiama DNA. In realtà è organizzata nei cromosomi. Ci sono 23 coppie di cromosomi, insieme fanno 3 miliardi di nucleotidi. Pensate a quanta informazione c'è in questi 3 miliardi di nucleotidi. Questo vuol dire che ognuno di noi porta un qualche segno particolare. Segni particolari condivisi dagli italiani per alcune popolazioni possono essere definiti, appunto quei gruppi, quelle minoranze linguistiche che vi dicevo. Per gli altri gruppi che sono molto mescolati, molto, come si dice, cosmopoliti, sarà sicuramente più difficile, però se dovessi scegliere uno strumento, sceglierei di andare a vedere tutti e tre i miliardi di questi nucleotidi. Insomma, una bella, un bel ricerca, lavoro. Un bel lavoro, esatto. Se qualcuno ci paga, magari, a gratis, cioè i soldi non ce li metto io. Grazie davvero, Giovanni, per averci fatto grazie fare a voi, questo grazie viaggio. A voi. Grazie, ciao, grazie, buona estate. Ciao, ciao. Ciao, presto. Grazie. E dopo la bella chiacchierata con Giovanni Destro Bisola è il momento del traffico. Prima però Carmen Pellegrino, bravissima scrittrice che ci sta accompagnando in queste puntate. Lei, abbandonologa, lei che va alla scoperta di paesi abbandonati, di luoghi fantasma, e ce li racconta come se fossero delle favole. In Calabria c'è un paese bizzarro, su un monte altrettanto bizzarro che sembra la mano di un gigante di pietra. Il paese è Pentedattilo, pente in greco vuol dire cinque, cinque come le dita della mano, ed è disabitato. È faticoso arrivarci, ma la visione di questo piccolo borgo è magica. Sembra lanciato nell'aria e quasi arriva a toccare il cielo. Fu abbandonato dai suoi abitanti perché la povertà li costrinse ad emigrare e poi i terremoti e le alluvioni non rendevano la vita facile a nessuno di loro. Qualcuno dice che fra le vie del piccolo borgo si aggirino dei fantasmi, che di notte il vento ululi portando dei messaggi. Si dice pure che di notte il castello ritorni abitato. A noi piace pensare che sia la mano di pietra a sorreggere il paese, con infinita dolcezza. Qualcuno sospetta che sia la mano di Dio. Ciao chef, come stai? Ciao Pier, bene, bene, grazie. Senti, cosa mi prepari? Io pensavo nuvole di granchio, una sensazione di finferno, magari con un'assenza di rododendro al gratin. No, no, no, sei troppo futurista, dobbiamo essere più pop. E parla come mangi. Ma no, mangia come parli. Mangia come parli, di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Da sabato 9 settembre alle 9, su Radio 24. Non sei convinto? Eh no, è che due spa... Terra in vista. Eccoci qua, continuiamo a parlare di popolo e continuiamo a farlo con le grandi domande dei nostri piccoli. Domande tipo questa. Chi c'era in Italia prima degli italiani? Non è male come domanda. No, perché sicuramente c'era qualcuno prima di noi, Homo sapiens. Che non era italiano, cioè, perché gli italiani prima degli italiani non erano italiani o forse non sapevano non di essere sapevano italiani. Di esserlo, esatto. E chi erano? Beh, lo chiediamo come sempre a uno dei nostri ospiti. Diamo il benvenuto a Giorgio Manzi, che è paleantropologo dell'Università La Sapienza di Roma, dove tra le altre cose dirige anche il polo museale. Ciao Giorgio, benvenuto a Terra in Vista. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, è una domanda sensata, no? Chiedersi chi c'era in Italia prima degli italiani. Ah beh, certo, è una domanda sensata, molto sensata, e che pesca in, in qualcosa che conosciamo poco, a scuola ci insegnano poco quanto sia profonda la storia, anzi la preistoria, no? Esatto. Quell'epoca in cui appunto non c'erano gli italiani, o almeno non sapevano di esserlo, ed appartenevano magari anche a specie diverse dalla nostra. È una storia veramente lunghissima, risale ad almeno 1 milione e più di anni fa. E chi c'era? Ma c'erano innanzitutto, veramente tanto tanto tempo fa, parliamo di 1 milione e 2, 1 milione e 3, forse anche 1 milione e mezzo di anni fa, c'erano delle creature che assomigliano molto a quelli che noi tecnicamente chiamiamo i primi Homo. Qui bisogna aprire forse una parentesi: nel passato della nostra specie sono esistite tante varianti che riferiamo al genere Homo, ma non erano Homo sapiens, quindi erano simili a noi per certi versi, ma via via più diversi man mano ci spostiamo indietro nel tempo. Erano delle creature bipedi, questo sì, perché lo erano anche i nostri più remoti antenati in Africa. E poi quando questi antenati bipedi si diffusero anche in Asia e poi in Europa, arrivano fino qui in Italia. Erano degli esseri che già producevano manufatti in pietra, ma erano manufatti in pietra estremamente elementari. Erano bipedi, avevano un cervello relativamente piccolo, ma insomma già abbastanza grande per produrre questi manufatti e per incominciare a vivere di caccia e raccolta, perché per lunghissimo tempo la storia dell'umanità è stata una storia di cacciatori e raccoglitori. Molto, molto a lungo è durata questa storia, prima della grande rivoluzione dell'agricoltura, della produzione del cibo, che avvenne davvero molto tempo dopo. Giorgio, senti, ma c'è un legame profondo poi tra questi primi abitanti della nostra penisola e l'Africa, no? Perché andando a guardare bene, poi tutti provenivano dall'Africa, e poi questa storia si ripete anche in tempi più recenti. Sì, è verissimo, effettivamente sembra che che dall'Africa siano emerse più e più volte delle forme via via più evolute. E questi erano i primi, quelli che facevano parte di quella che tecnicamente in inglese viene chiamata l'Out of Africa 1, cioè la prima grande diffusione dall'Africa, ma ce ne sono state diverse. Una grande importante diffusione dall'Africa sarà poi quella della nostra specie di Homo sapiens, ma in mezzo tra i primi di cui parlavamo un attimo fa e Homo sapiens ce ne sono state diverse altre. E magari a volte anche proprio legati a nuove diffusioni del continente africano. E tra questi i Neanderthal, naturalmente. I nostri ragazzi a scuola i Neanderthal li studiano sempre. C'è qualche news sulla loro estinzione? Abbiamo capito finalmente perché non abitano più l'Italia? Sì, diciamo che tra questi, tra le forme che si diffondono in Europa, ci sono anche gli antenati dei Neanderthal. E poi i Neanderthal invece seguono un'evoluzione tipicamente europea, man mano che passano le glaciazioni diventano sempre più Neanderthal, fino ad arrivare agli ultimi, che sono quelli che noi chiamiamo proprio Neanderthal tipici. E poi i Neanderthal a un certo punto, sì, come dicevi, si estinguono. E l'estinzione dei Neanderthal è un fatto che ci rattrista tutti, perché erano un'umanità a cui siamo affezionati. Neanderthal è proprio così, come dire, una specie di marchio di fabbrica, proprio il nome stesso, insomma, rappresenta l'intera scienza delle nostre origini. E il fatto che i Neanderthal a un certo punto si siano estinti ha impoverito la variabilità delle creature umane che popolavano il pianeta soltanto 50.000 anni fa o giù di lì. Certo. Giorgio, ma se un nostro ascoltatore volesse vedere qualcuno di questi antenati qui in Italia, cosa deve fare? Cioè, dove deve bussare? Beh, per esempio può bussare anche qui alla Sapienza, all'Università di Roma, dove sono conservati un paio di questi reperti chiave dell'evoluzione dell'uomo di Neanderthal. Oppure andare giù in Puglia, dove c'è la ricostruzione proprio come se fosse vivo dell'uomo di Altamura. L'uomo di Altamura è un Neanderthal arcaico che fu scoperto alla metà degli anni 90 giù dalle parti di Bari, proprio nella periferia, poco fuori la cittadina del pane, quella che tutti conosciamo appunto come Altamura. E lì in una grotta ancora sono conservati i resti di un intero scheletro di un Neanderthal, avvolti inclusi all'interno delle concrezioni stalagmitiche che lo stanno via via sempre più inglobando. E non è ancora stato studiato a fondo, perché prima di essere studiato dovrà essere estratto questo resto, come si conviene ogni resto paleontologico, archeologico, ma per il momento abbiamo potuto fare degli studi preliminari che hanno consentito di ipotizzare come poteva essere proprio in vita questo individuo. Abbiamo affidato i dati che abbiamo raccolto a due paleoartisti, quegli specialisti che ricostruiscono in silicone, certo, il volto e il corpo di questi nostri antenati, e questa ricostruzione in silicone è presente in uno dei musei di Altamura, proprio in città. Perfetto. Ed è impressionante, perché è come trovarselo di fronte improvvisamente, questo uomo con la barba, i baffi, i lunghi capelli, è un corpo simile al nostro, ma negli occhi una scintilla diversa. è lì, c'è tutta la differenza. Grazie davvero a Giorgio Manzi per averci fatto fare questo viaggio nel tempo alla scoperta dei nostri antenati. Ciao Giorgio, grazie, buona estate. A voi, arrivederci. Grazie, ciao. A presto. Ciao. Te la spiego io. Ed è arrivato il momento anche dell'ultimo appuntamento con l'arte, quindi salutiamo Serena Riglietti, illustratrice, docente di disegno e illustrazione presso l'Accademia di Belle Arti di Urbino e Art Director delle Diverti Mappe, della app Map2Go, che ci ha accompagnato in questa lunga estate. Ciao Serena! Ciao! Ciao! Oggi parliamo di popolo, quindi chiudiamo appunto con gli italiani. Cosa ti ha suggerito questa parola? Ma allora, sicuramente un'opera tra quelle che mi ha colpita di più sin da bambina è Il Quarto Stato, che è un'opera di Giuseppe Pellista da Volpedo. È un artista vissuto a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, e questo grande quadro è conservato a Milano, al Museo del Novecento. È veramente grande, 3 metri per 5 metri e mezzo. Mm-hmm. Rappresenta il popolo, pensato come la gente, i cittadini comuni, e infatti è rappresentato una folla di lavoratori che avanza verso chi guarda. Fra l'altro sembra quasi di vederli in movimento, come se si stesse al cinema. L'autore mette in primo piano tre figure, al centro c'è un uomo con uno sguardo fiero, a sinistra un altro più pensoso e a destra una donna che cammina famosissima con il bambino in braccio. Lui, per realizzare quest'opera, si servì di modelli dal vero, quindi coinvolse anche i suoi concittadini di Volpedo e poi sua moglie Teresa, che è la donna che tiene in braccio il bambino. Sì, l'ho sempre vista come una rappresentazione proprio di orgoglio, no? Cioè del fatto di condividere con altre persone una condizione e una volontà di migliorarsi. Un'opera veramente molto affascinante. È molto me. D'impatto, sì, molto, beh, sì, molto bella, sì. Utilizzata in mille contesti diversi. Sì, infatti. Assolutamente un'immagine che evoca proprio l'appartenenza, diciamo. Esatto. Quale tecnica ti ha suggerito? In questo caso sarebbe difficile suggerire ai ragazzi di dipingere, chiaramente se ce ne sono veramente di bravi sarebbe bello una rappresentazione proprio di qualcosa che gli appartiene, no? Cioè di un gruppo di persone con cui hanno condiviso qualcosa di importante, oppure la propria famiglia o la propria classe, la propria classe in cammino. Sì, esatto, i momenti in cui hanno condiviso dei passaggi importanti della loro vita con persone che poi nella maggior parte dei casi spariscono dalla nostra vita perché diventano altro da noi e noi troviamo altre persone, quindi secondo me è bello questa idea di fermare un po' nella memoria i momenti in cui si è condiviso qualcosa di importante. E, ripeto, dipingere è già una questione un po' così, un po' impegnativa, però ad esempio i ragazzi potrebbero utilizzare la fotografia. Sì. Chiaramente anche in questo caso, forse se hanno tante persone con cui hanno condiviso cose importanti, è difficile magari dare appuntamento a tutti nello stesso posto allo stesso giorno, quindi potrebbero lavorare con il collage. Quindi prendere tante fotografie, anche delle fotografie che hanno scattato quando hanno fatto dei viaggi particolari o hanno condiviso momenti particolari, e ricreare un'immagine veramente tenendo proprio come base questo quadro di Pellista da Volpedo, quindi questa idea di un cammino verso di noi, di qualcosa che ci è appartenuto, però utilizzando il collage appunto. Perfetto. Poi oggi le fotografie stampate su carta ce ne sono sempre di meno perché abbiamo tutto in digitale, no? Certo. Quindi secondo me sarebbe bello così realizzare un grande collage da regalare agli amici che si sta per salutare. Eh sì, insomma, il collage non è altro che un utilizzo analogico di Photoshop, cioè è un ritorno infatti, all'antica. Infatti. Grazie allora Serena, adoro. Grazie Serena per questo spunto, grazie a voi per averci accompagnato a Terra in Vista con l'Italia spiegata a mio figlio in questa rubrica Te la spiego io. Ciao e buona. Ciao Serena. Ciao, a presto. Ciao. A presto, ciao. Adesso ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua, con Terra in Vista. Terra in Vista. Eccoci qua ancora con Terra in Vista, Federico Taddia e Telmo Pievani, l'Italia spiegata a mio figlio. Oggi ultima puntata che abbiamo dedicato al popolo italiano, questa parola che stiamo scoprendo, e ovviamente continuano le domande delle bambine e dei bambini, domande tipo questa. Ma si può essere neri e italiani? È una domanda che sembra quasi una provocazione, vero? Molto diretta. Molto diretta. Del resto il popolo italiano si sta evolvendo, no? Quindi. Assolutamente. Quindi per dare risposta a questa domanda abbiamo invitato un'amica, esperta anche di questi temi, che tratta tantissimo, li tratta all'università, li tratta nei suoi scritti, li tratta nei suoi tantissimi incontri nelle scuole. Diamo il benvenuto a Ijaba Scego, scrittrice e ricercatrice. Ciao Ijaba. Ciao, benvenuta. Ciao a tutti. Allora Ijaba, si può essere neri e italiani? È una domanda cattiva? No, non è una domanda cattiva, però la risposta è molto semplice. Sì, si può essere neri italiani. Io sono nera italiana perché appunto sono nata qui da genitori somali, quindi quando nasci in un posto diventi automaticamente di quel posto. E però ho notato nel tempo, perché la ricerca mi ha portato a questo, che neri italiani ce ne sono stati anche prima. Io parto sempre da un ritratto del Pontormo che si trova a Baltimora, dove c'è questa signora molto bella, molto statuaria, Maria Salviati, con una bambina. Questa bambina è Giulia De Medici, mm-hmm. Però guardando bene la bambina non è proprio bianca, è un po' nera e un po' bianca. Perché? Perché praticamente il padre, Alessandro De Medici, era figlio di una schiava, tale Simonetta Collevecchio, e appunto una della casata dei Medici. Lui, diventato duca di Firenze, non era un personaggino proprio simpatico, però era comunque, come tutti i Medici, insomma, un po' arrogante, però ecco, è stato duca di Firenze. Quindi, appunto di questi esempi ce ne sono miliardi, ma perché in Italia uno si scorda sempre, lo dicevano gli Alma Megretta in una bella canzone, siamo tutti figli di Annibale, quindi tutti africani in un certo senso, perché Annibale è passato qui con le sue truppe, ma lasciando perdere proprio Annibale, in Italia c'è stata proprio una tratta. Una tratta di schiavi. Noi parliamo sempre dell'Atlantico e ci dimentichiamo del Mediterraneo. C'era una passaggio di schiavi sia in Nord Africa sia in Italia, e basta girare un po' per chiese, per piazze, per vedere tracce di questa schiavitù. A Livorno c'è la statua dei Quattro Mori, dove c'è appunto questo bellissimo ragazzo che è sicuramente di origine senegalese o comunque maliana. Ci sono le statue dei quattro schiavi nella Basilica dei Frari. Quindi sì, si è stati neri italiani, le tracce sono tantissime, lo si è ancora oggi di più, perché appunto con le migrazioni l'Italia è diventata una specie di insalata, ed è bello che sia un'insalata, dove non solo ci sono neri, ci sono persone di origine cinese, di origine araba, di origine indiana, e siamo italiani per il cosiddetto ius soli, no? Dovrebbe essere legge dello Stato, purtroppo ancora non lo è, perché chiaramente quando sei nato in un posto magari non hai visto nemmeno il paese di origine. Cioè io dico sempre di essere italiana somala, romana, romanista, perché sono tutte cose che determinano la tua identità. Cioè e siccome sono romana, lo dico sempre, il paesaggio che mi sta intorno ha determinato il mio essere italiana. Cioè il Capitello Corinzio, mm-hmm. un pezzo di muro antico, una statua romana, fanno parte di me, cioè anche se vado a vivere dall'altra parte del mondo, nell'Antartide, no? Io comunque sarò sempre italiana, lo si vede da come gesticolo, da quello che mangio, da come mi vesto, perché poi è questa l'italianità, cioè sono fatta, l'italianità è fatta da tanti piccoli gesti, non è il colore della pelle, perché poi il colore della pelle o la religione sono qualcosa che sono in più della tua identità, no? Io mi sono sempre sentita un'italiana più, cioè sono italiana, ma ho anche altre cose che vengono dalla famiglia di origine. E già, ma senti, noi abbiamo parlato di migrazioni, no? Antiche e recenti, e tu giri molto per le scuole. Oggi sta succedendo qualcosa nelle scuole, proprio sta cambiando l'Italia, l'antropologia italiana, soprattutto adesso nella scuola elementare, poi nella media, no? Una specie di ondata di cambiamento, è così? Assolutamente sì, perché se io penso, io sono nata nel 74, quando andavo all'elementare, io ero praticamente l'unica nel quartiere, l'unica proprio Roma Nord, perché appunto vivevo a Roma Nord. Adesso quando io vado nelle scuole, ho scritto appena adesso un libro per bambini su un rinoceronte che è finito a Venezia, prestami le ali, e praticamente quando parlo con i bambini io vedo, veramente faccio il giro del mondo, no? Appunto dalla Cina al Bangladesh. Però poi mi rendo conto che quei bambini sono esattamente come me, non c'è proprio loro tra di loro, i bambini non vedono differenze né del colore, cioè le notano, è chiaro che le notano, però non è che questo è un grosso ostacolo per fare amicizia. I bambini sono molto più avanti di noi adulti, no? Perché la società italiana ormai è questa, dovrebbe essere fotografata in quanto tale. E poi la cosa bella secondo me delle scuole è che molti bambini parlano magari due o tre lingue scambiano conoscenza con gli altri bambini. Io ho scoperto una cosa fantastica nelle scuole, che ormai sta prendendo piede il cricket. Io non l'avevo mai visto, però tipo sì, io vivo nel quadrante est di Roma, e tipo a Villa Guardiani in questi grandi parchi, e vedi tanti ragazzi vestiti molto elegantemente, che con queste palette, no? E adesso molti ragazzi italiani da generazioni che magari giocavano solo a calcio giocano anche a cricket, quindi ci si scambiano saperi, ed è questo secondo me è la forza di questo essere un po' meticci. Giava, prima di salutarci, chi è Clara la rinoceronte? Clara è la protagonista del mio libro, illustrato da Fabio Visentin, Prestami le ali, storia di Clara la rinoceronte, un rinoceronte indiano che è arrivato purtroppo a Venezia come attrazione da baraccone, però io nella favola che ho scritto, grazie anche alle illustrazioni di Fabio, abbiamo un po' cambiato la sorte di Clara, perché non ci piaceva questo rinoceronte schiavo, e l'abbiamo liberata nella favola grazie all'aiuto di due bambini, un bambino appunto schiavo africano a Venezia, che riprende tutta la storia di quelli schiavi, di quei moretti veneziani che un po' si vedono ancora oggi nei negozi, e di una bambina ebrea, Esther, che appunto vive nel ghetto e la madre appunto è una pasticcera e fa dei dolci buonissimi. Io consiglio a tutti di andare a assaggiare i dolci della tradizione ebraica veneziana, che sono assolutamente favolosi. E poi c'è un eroe in questa storia, che è il leone di San Marco, ma non voglio dire di no, più. Non svegliamo il finale, esatto. Non svelo nulla. Prestami le ali, questo è il titolo. Un grazie a Giava Scego per essere stata con noi. Ciao Giava. Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao, ciao. E quindi abbiamo capito che si può essere neri e italiani. E che dobbiamo giocare a cricket, che ha tantissime regole. Anche io ogni tanto vado a sbirciare mentre giocano dalle mie parti, che è molto affascinante, però anche incomprensibile. Bisogna veramente andarlo dura, a giocare. Dura delle mezze giornate, no? Sì, infatti bisogna avere anche tempo a disposizione. Telmo, quale storia ci racconti? Ma dunque, la storia di Giaba mi ha fatto venire in mente un paradosso, una storia paradossale, che è questa, che riguarda dalle razze umane. Tu sai che per tutte le storie che abbiamo raccontato, le razze umane, che sono state usate tante volte, no, nel dibattito, non possono esistere, semplicemente non ci sono proprio, non hanno nessuna base genetica, biologica, perché noi Homo sapiens siamo un'unica grande popolazione di origine africana, molto recente, con un'origine unica e che poi è stata molto mobile, promiscua, è andata in giro per il mondo. Insomma, queste distinzioni genetiche tra le razze non esistono. Eppure, se vai negli Stati Uniti ed entri in una farmacia, puoi trovare ancora oggi i cosiddetti farmaci razziali, cioè dei farmaci che si dice andrebbero bene soltanto per certe razze, per esempio gli afroamericani oppure i nativi americani. Quindi vedi che il termine si usa ancora. Altro aspetto del paradosso interessante è che noi sappiamo ormai da diversi anni che le razze non esistono, eppure il razzismo, invece, come atteggiamento deleterio, continua a proliferare, si diffonde sempre di più e assume anzi nuove forme, meno biologiche, più culturali. E ci sono degli scienziati che hanno dimostrato proprio che il nostro cervello si è evoluto per distinguere il noi dall'altro da noi, no? E quindi quasi intuitivamente percepiamo il diverso da noi come una minaccia, ma poi è sufficiente ragionarci un po', oppure aver avuto un'educazione, diciamo, alla diversità, che il nostro cervello impara che non è così. E pensa che oggi c'è un dibattito molto interessante, perché la parola razza c'è anche nella Costituzione italiana, nell'articolo 3, nel primo comma, ma in una frase in negativo, che dice: nessuno in Italia può essere mai discriminato per sesso, per razza e per opinioni politiche e così via. E oggi c'è un dibattito molto interessante, perché alcuni antropologi stanno proponendo di toglierlo dalla Costituzione. Visto che le razze non esistono, si potrebbe dire in un altro modo, e c'è un'interessante discussione, il dibattito è aperto, se toglierlo o meno da quel bellissimo articolo che decreta l'uguaglianza di tutti gli italiani davanti alla legge, indipendentemente dal colore della pelle e da dove hanno avuto origine i loro nonni o i loro genitori. Perché, insomma, come diceva anche prima Ijaba, quando si parla di integrazione le parole hanno ancora un peso importante, quindi per fortuna che c'è chi ci riflette, per fortuna ci sono questi dibattiti. Ora invece è il momento degli animali con Fringuelli d'Italia. Fringuelli d'Italia. Ed è arrivato il momento anche dell'ultimo appuntamento con Caterina Spiezio, responsabile settore ricerca e conservazione del Parco Natura Viva di Bussolengo, che ci ha accompagnato in questo bellissimo viaggio alla scoperta di animali inattesi nel nostro paese. Ciao Caterina, ben ritrovata. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti. La puntata di oggi è dedicata alla parola popolo. Hai trovato un popolo tra gli animali? C'è un popolo alternativo, no, in Italia, molto più numeroso degli italiani stessi. Chi sono? Sì, il popolo alternativo sono il popolo dei lillipuziani cosiddetti, sono i coleotteri. I coleotteri che ospitano, che si trovano in tutti gli ambienti, dagli orti, nei giardini, le sabbie delle spiagge, nelle strade di campagna e persino nelle nostre case. E per parlare, per rendersi un pochino conto di cosa sono i coleotteri, alcuni esempi importanti: la graziosa coccinella, quella che di solito ha i colori diversi, rossi, verdi, piuttosto che la lucciola, o anche quello un pochino più fastidioso che è il tarlo dei mobili che si trova in casa. I coleotteri sono veramente molto numerosi e costituiscono circa 400.000 specie finora descritte a livello mondiale, e di queste 200 famiglie costituiscono l'intero ordine. Importantissimo per l'Italia, perché l'Italia è molto attenta alla presenza dei coleotteri, e se ne descrivono circa più di 12.000 specie presenti nel nostro paese, e di queste 12.000 il 18% sono endemiche, quindi si trovano solo ed esclusivamente in Italia. Perché questa è un po' la caratteristica dei coleotteri, oltre ad essere tanti, cioè sono proprio tantissime le specie, quindi diversificati. Una famiglia molto molto diversificata. Molto diversificata, sì, nonostante abbiano delle caratteristiche che sono questo corpo particolarmente duro, no? Quindi il coleottero ha una struttura che, lo ricordo anche il nome, che è dura, e poi presentano le ali. Queste sono un po' le caratteristiche che distinguono i coleotteri dagli altri insetti. E c'è un caso particolare di una specie che è la Crosoniella relicta, che è stata descritta nel 1975, è veramente molto piccolo, perché è più piccolo di 2 mm come coleottero, ed è l'unico membro della famiglia della Crosoniellide che è presente in una particolare area, che è il preappennino laziale. E la caratteristica di questa specie è che, dal momento in cui è stata descritta, quindi ritrovata e descritta, purtroppo non la si è più ritrovata, per cui non si sa nulla della biologia, non si sa nulla di particolare di questa specie. E quindi sarebbe interessante invece fare studi in modo tale da avere più informazioni su questo piccolissimo coleottero che popola una particolare area dell'Italia. C'è stato visto, descritto e mai più visto, trovato. Un mistero. Fantastico, è bello, insomma, sapere che ci sono ancora tante cose da scoprire e da conoscere. Sì. Grazie davvero a Caterina Spiezio, parconaturaviva.it, come sempre il sito internet del parco di Bussolengo. Grazie Caterina, spero che sia stato un bel viaggio anche per te. Assolutamente sì, è stato veramente molto bello. Ciao, grazie. Grazie, a presto. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci. Ci fermiamo un attimo, il traffico, poi ancora qua, con Terra in Vista. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Terra in Vista. Eccoci qua con Terra in Vista, l'Italia spiegata a mio figlio. È il momento della quarta e ultima domanda. Prima degli uomini in Italia c'erano i dinosauri? In effetti, in una puntata dedicata al popolo e alla popolazione di una nazione, facciamo qualche passo indietro. Un lungo passo indietro. E andiamo a capire se prima degli uomini in Italia c'erano dei dinosauri, dinosauri italiani, quindi se si possono definire dinosauri italiani davvero in Italia. Beh, e per questa domanda abbiamo invitato un esperto, diamo il benvenuto a Massimo Bernardi, paleontologo del Muse di Trento. Ciao Massimo, ben ritrovato. Ciao. Ciao, piacere di risentirvi. Allora, insomma, una bella domanda. Tu sei espertissimo. In Italia c'erano i dinosauri? Oh sì, ce ne sono stati molti e per molto tempo. Anzi, direi che la nostra penisola registra molto bene diverse fasi dell'evoluzione dei dinosauri. Abbiamo infatti trovato testimonianza dei più vecchi dinosauri, tra i più vecchi dinosauri al mondo, quindi quelli che circa 230 milioni di anni fa, quindi un bel po' prima degli umani nella nostra penisola, si diffusero nel mondo e anche in Italia, e poi tra gli ultimi dinosauri, circa 60-70 milioni di anni fa. Quindi, insomma, dinosauri che passeggiavano per l'Italia o avevano qualche caratteristica proprio tipicamente italiana? Diciamo che è soprattutto per gli ultimi dinosauri, quelli che i geologi attribuiscono al periodo cretacico, l'ultimo della fase evolutiva dei dinosauri, poco prima della loro estinzione, quella celebre causata probabilmente da quel grande meteorite che spazzò via una grande varietà di diversità della vita, tra cui anche i dinosauri non volatori. Soprattutto in questa ultima fase ci sono dei dinosauri un po' caratteristici della nostra penisola. Forse la cosa più interessante è che, un po' similmente a quanto sta succedendo oggi, è sempre successo nella storia degli umani, anche nel Cretacico l'Italia era un ponte, era un luogo di passaggio tra l'Africa e l'Europa. Infatti i dinosauri, la maggior parte di questi dinosauri cretacici, venivano probabilmente da sud, dall'Africa, e si spostavano verso nord, passando attraverso quella che allora era una sorta di arcipelago di isole, piuttosto che l'Italia attivale come la conosciamo oggi. Voi lì, dalle vostre parti, in Trentino, poi avete scoperto anche delle orme di dinosauri, che è bellissimo perché non è un dinosauro morto, ma è una fotografia di un comportamento del dinosauro quando è vivo, no? È proprio così. In Italia sono stati trovati in 5 siti diversi dei resti scheletrici, dunque dei dinosauri veri e propri, anche se non sempre sono tutti articolati, quindi tutti completi, ma oltre 30 siti con orme di dinosauri, quindi delle zampate, delle grandi camminate in alcuni casi, delle singole orme in altri, che ci danno testimonianza certa del passaggio di dinosauri nella nostra penisola. E in queste aree più verso il nord, diciamo tra la Lombardia, il Trentino, il Veneto e il Friuli, sono registrate le orme, le testimonianze più vecchie della presenza dei dinosauri nel nostro paese. In particolare, proprio quest'estate stiamo chiudendo un progetto di ricerca nel quale documentiamo proprio il primo arrivo dei dinosauri nella nostra penisola. Le tracce si trovano ben conservate tra il Trentino e il Veneto e danno testimonianza di un arrivo molto precoce dei dinosauri, dei primi dinosauri, snelli, agili. Dobbiamo immaginarci qualcosa di simile ad un cane da compagnia come dimensione, che probabilmente originatisi in Argentina o comunque nell'America meridionale, arrivarono nelle nostre nelle nostre aree già pochissimi milioni di anni dopo e la loro comparsa, un dato anche molto interessante da un punto di vista scientifico, che ancora una volta però ci dice che il nostro pianeta, il nostro paese così, così diverso da sud a nord, messo assieme ci aiuta a raccontare storie davvero interessanti e davvero molto articolate. Massimo, prima di salutarci, ma puoi lasciarci qualche nome di questi dinosauri? Avevano dei nomi particolari, perché è sempre un aspetto molto affascinante i nomi che date a questi animaletti. Tra i dinosauri più celebri d'Italia certamente ci sono Ciro, Scipionix samniticus, trovato a Pietraroia vicino a Benevento, e Tetisadros insularis, il famoso Antonio, il dinosauro di Trieste. Le orme fossili hanno poi una nomenclatura ancora più contorta, che diciamo è comprensibile quasi solo agli esperti nella maggior parte dei casi. Le orme più comuni che troviamo in Italia appartengono ad esempio al genere Grallator, che però si definisce come una peculiarità della forma dell'orma piuttosto che del dinosauro. Dunque i nomi più celebri forse sono ancora quelli dei dinosauri in carne ed ossa, come appunto Scipionix e Tetisadros, Ciro e Antonio. Un grazie a Massimo Bernardi delle Muse di Trento. Ciao Massimo. Ciao. Grazie a voi, ciao. Adesso è mentre Tiano Piovani che ci racconterà di quel momento in cui dinosauri e uomini si sono incontrati, giusto? Sì, dinosauri della compagnia, tra l'altro, abbiamo appena sentito. No, ecco, vorrei sfatare un mito più che raccontare una storia, perché non siamo nei Flintstones, diciamo, perché molto spesso gira questa storia in certi siti strani, creazionisti, o su web si trova spesso che i dinosauri avrebbero convissuto con noi umani da un sacco di tempo. Questo non è possibile. Adesso abbiamo sentito i dinosauri italiani. Ciro era un carnivoro, un dinosauro carnivoro che poi è stato uno degli antenati degli uccelli attuali. L'altro, Antonio, quello di Trieste, era invece un adrosauro, cioè un grande dinosauro erbivoro, quelli con il becco ad anatra che i nostri ragazzi conoscono benissimo. Quando sono vissuti? Allora, sono vissuti da prima di 200 milioni di anni fa fino a 65 milioni di anni fa, quando è arrivato quell'asteroide che ha cambiato la storia del pianeta. E quando è arrivato quell'asteroide, noi dove eravamo? Non c'eravamo ancora. C'erano dei proto-proto-primati, che erano praticamente come dei roditori, degli animaletti, non so, come dei toporagni di oggi. A sangue tiepido e caldo, insettivori, vivevano di notte, si cibavano un po' di cose diverse, semi o insetti, e bisogna aspettare, pensa, fino a 40-45 milioni di anni fa, quindi 20 milioni di anni dopo la catastrofe, per l'arrivo dei primi primati come noi, antenati tra noi, gorilla, gli scimpanzé. E fai conto che noi ci siamo separati dal nostro nonno in comune con gli scimpanzé circa 6 milioni di anni fa. Quindi 65 la catastrofe, 6 milioni di anni fa cominciano ad esistere in giro anche per l'Italia degli ominini, cioè degli antenati di noi esseri umani. Però i Flintstones un po' di ragione ce l'avevano, però va un po' riscritto tutto, perché siccome i dinosauri che volano ci sono ancora e sono gli uccelli, in qualche modo loro hanno convissuto con noi dopo, quando siamo arrivati noi, perché noi e gli uccelli siamo come mammiferi e dinosauri che convivono insieme. Cugini! Molto alla lontana. Lontana, però insomma siamo imparentati. Adesso è il momento della scienza con Andrea Vico. Eppur si muove. È il momento della scienza, è il momento di Andrea Vico, giornalista scientifico dell'associazione Two Science. Ciao Andrea, ben ritrovato. Ciao. Buongiorno a tutti e buona estate a chi ci ascolta. Come sempre Andrea ci suggerisce degli esperimenti per conoscere meglio degli scienziati italiani. Telmo, qual è lo scienziato di oggi? Beh, oggi è un grande scienziato del secolo scorso, Renato Dulbecco, che forse molti si ricordano perché è stato anche un personaggio molto noto, molto... Televisivo, esatto. Premio Nobel, che è stato uno dei grandi fondatori del progetto Genoma, che è arrivato a compimento nel 2000 e che ha permesso per la prima volta di sequenziare tutta il DNA, tutte le letterine del nostro codice genetico, facendoci capire che siamo tanti popoli ma in realtà un unico grande popolo. Andrea, quale esperimento ci vuoi suggerire? Allora, più che un esperimento, oggi facciamo un gioco esperimento, e quindi perfetto fare in spiaggia, in campeggio, durante una gita in montagna con 10-15 persone che hanno voglia di mettersi in gioco. E ci vuole un capogioco che momentaneamente si assenta, si allontana un po'. tutti gli altri giocatori, con un pezzettino di carta qualsiasi, scrivono, senza mettere il proprio nome, quindi lasciando tutto in incognito, il luogo di nascita dei propri genitori, dei propri nonni e dei propri bisnonni. Se il luogo di nascita è in Italia, si mette la città e la regione. Se all'estero, basta semplicemente la nazione. Dopodiché tutti questi foglietti vengono dati al capogioco, si divide il gruppo in due squadre, quelle due squadre si schierano di rimpetto una all'altra e il capogioco non chiama i numeri, ma chiama semplicemente due città, due regioni o due stati a suo piacimento. E quindi devono partire tutte quelle persone che hanno chiaramente segnato in quella regione o in quello stato l'origine di uno dei loro parenti. E man mano che aggiungo regioni o nazioni, posso andare a scoprire come persone che io posso immaginare guardandole semplicemente esteticamente da fuori come italiane piuttosto che nordafricane o dell'est o del Sud America, in realtà avere tutta una serie di parentele e di origini molto più mescolate di quello che sembra. Insomma, un gioco per conoscersi meglio, che poi è il bello della scienza. Grazie Andrea, è l'ultima puntata oggi, grazie per aver viaggiato con noi, come sempre, con tantissimi spunti, tantissime dritte, ci hai fatto davvero divertire. TwoScience.it come sempre per tutte le informazioni. Ciao Andrea! Ciao, grazie prossimo. A voi. E siamo arrivati alla fine di questa puntata, ma siamo arrivati alla fine anche di questo viaggio. Un grazie ad Andrea Spenuso in redazione che ci ha supportato in tutte queste puntate, un grazie ai nostri tecnici, in particolare oggi Andrea Roccabella e Filippo Aureggi, e un grazie a Telmo Pivani, ci siamo divertiti. È stato un grande viaggio, anche l'indietro nel tempo. Sì, abbiamo viaggiato nel tempo, nello spazio, e abbiamo appreso davvero tantissime cose. Come da tradizione ci devi dire quali sono gli insegnamenti principali di oggi. Quelli di oggi in particolare? Beh, direi che per riconoscere un italiano abbiamo imparato che dobbiamo guardare dentro il suo DNA, non basta guardarlo da fuori, e che si può benissimo essere neri e italiani. È vero. Tutto ciò lo potrete riascoltare sul nostro sito radio24.it, nelle pagine di Terra in Vista, dove potrete trovare tutte le puntate. Ciao Telmo, grazie. Alla prossima. Alla prossima, Terra in Vista.